Buonasera a tutti, anch'io ringrazio gli organizzatori perché hanno dato a tutti, quindi in questo caso anche a me, la possibilità di conoscere un po' meglio l'oggetto della questione, insomma, che come sempre quando si ha a che fare con questioni complesse poi no, può essere i contorni possono sfuggire. Quindi mi pare di aver capito che insomma è antieconomico, è pericoloso per la salute dei cittadini, per l'ambiente. Mi auguro che almeno c'è salvaguardi dall'invasione di piranha, no? Quantomeno per questo stravolgimento della temperatura dell'acqua. Ma anche a me interessa quello che poi diceva adesso, che poi è l'ultima fase di questa riunione, insomma, il dopo, perché credo che questo sia poi l'oggetto della questione, insomma, il dopo, come appunto attraverso il dopo si può bloccare questa operazione. E il dopo l'ha, secondo me, delineato molto bene Carlo, insomma, cioè io credo che ci sia la necessità di una santa alleanza in questo caso, tra diversi soggetti, tra diversi attori, insomma, i cittadini in primis i cittadini, organizzati sotto forma di comitati, ma anche i cittadini spontaneamente, le istituzioni, le forze politiche e come primo obiettivo, questo sì, chiaramente incalzare la Regione perché riveda quella decisione. Anche se, mi pare di aver capito, poi quanto alla fine l'ultima parola spetta allo Stato, né più né meno di quello che sta succedendo con le centrali nucleari, tant'è che in Puglia il governo pugliese quindi ha dovuto, no, ricorrere al Consiglio di Stato per l'ennesima volta rispetto, come dire, alla decisione di installazione dell'impianto, dell'eventuale impianto nucleare, perché ancora sono secretati o perlomeno a parole, insomma. Per cui la Regione diventa, secondo me, l'obiettivo principale immediato di fare, anche perché lo diceva la signora, ma mi pare di aver capito, insomma, che c'è anche un pronunciamento più o meno ufficiale, più o meno da parte del governatore, quindi insomma il governatore si è pronunciato ufficialmente, non so in quale sede, una serie di forze politiche sono contrarie. Io credo che un primo passo è quello chiaramente di far rivedere la decisione della Regione. Questo può essere fatto appunto attraverso questa alleanza. Da Senigallia, il sindaco, ma mi pare anche l'iniziativa di questa sera potrà arrivare comunque quel contributo che è sempre arrivato. Grazie.